Benvenuti a tutti, nuova puntata di NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 prodotta da Radio Big World. Iniziamo il nostro breve ma intenso viaggio nel mondo della Lega Professionistica di Pallacanestro Americana con uno dei giocatori più discussi del momento. Allora, Lonzo Ball è diventato il giocatore più giovane di sempre a mettere a referto una tripla doppia nella Lega, scalzando seppur di pochi giorni LeBron James in vetta a questa classifica. Ne vogliamo parlare? Ovviamente sì, anche se la questione Ball continua ad essere più interessante da un punto di vista sociologico che sportivo, almeno secondo il sottoscritto. 19 punti, 13 assist e 11 rimbalzi per lui nella sconfitta di sabato notte contro i Milwaukee Bucks, senza dimenticare anche i 3 recuperi e le 3 stoppate registrate. Proprio la prima scelta assoluta dei Lakers ha pubblicamente dichiarato in seguito a questa sua prima tripla doppia in carriera quanto sia capace di estraniarsi da tutto quello che lui ritiene essere rumore di fondo, intendendo per questo le voci, le pressioni mediatiche, i pettegolezzi, le polemiche, al centro delle quali si trova inevitabilmente il padre LaVar, il quale sembra essere proprio il mentore capace di insegnare al giovane Ball questa autentica arte comportamentale. La volontà del ragazzo è quella di vincere il più possibile, continuando a giocare come ha sempre fatto secondo il metodo di concepire il gioco che gli è più congeniale. Essendo un naturale all-around, non c'è quindi da meravigliarsi nell'osservare le sue medie momentanee, che raccontano di quasi 10 punti, 7 assist e oltre 6 rimbalzi per allacciata di scarpe. In realtà la nota dolente sta in materia di percentuale di tiro, un fondamentale dove il tanto discusso Lonzo non brilla a livello di meccanica, almeno secondo chi vi sta parlando. Si attesta di poco sopra il 30% dal campo e intorno al 25% da 3 punti in quasi 35 minuti di impiego con quasi 3 palle perse a partita. Diciamo che l'impatto con la Lega non è facile, a maggior ragione se ti trovi dentro ad un sistema che vuole metterti alla prova in tutto e per tutto, sia perché viene ritenuto la stella probabile del domani, sia per i continui ricami del padre che gioca nel costruire il fenomeno mediatico che precedentemente definivo il punto di vista sociologico della questione. Sì, perché effettivamente ci fidiamo di quello che ha detto la point guard dei Lakers, e cioè che il padre gli ha insegnato fin da giovanissimo ad estraniarsi il più possibile da tutto quello che rappresenta lo sfondo rispetto all'obiettivo prefissato. Si può addirittura pensare quindi ad un progetto premeditato che inevitabilmente vede al centro anche gli altri due fratelli di Lonzo, una sorta di team ball, un trio di replicanti che nella mente del padre probabilmente dovrebbe giocare insieme, magari in uno dei mercati più grandi d'America come Los Angeles, e creare così una dinastia nella Lega che sarebbe indubbiamente un mai visto. Intanto, creando aspettative enormi e stimolando la rabbia verso un figlio evidentemente protetto da una corazza mentale importante, LaVar Ball insegue la teoria del bene o male, l'importante è che se ne parli, tanto che praticamente ovunque e chiunque, sia che si tratti di fans che si tratti di detrattori, la prima cosa che si va a guardare nel tabellino di un post partita dei Lakers sono le statistiche proprio di Lonzo Ball. Se siete degli haters guarderete le percentuali, se siete dei fans guarderete gli assist di rimbalzi e poi proseguirete quello che sembra essere lo sport social del momento in relazione al mondo NBA, cioè la disamina su quanto Ball sia il fenomeno di domani oppure un bluff destinato a sgonfiarsi. Staremo a vedere, o meglio, come diceva il poeta, chi vivrà vedrà. Restando in argomento rookies, piccolo focus sul talento di Dallas, Dennis Smith Jr., una delle pochissime note liete nella stagione dei derelitti Dallas Mavericks. Proprio in questa settimana, dopo averci giocato contro nient'altro che il re LeBron James, l'uomo leader incontrastato evidentemente della Lega anche a livello di personalità e non solo a livello di gioco, ha deciso di rilasciare dichiarazioni di stima verso la point guard che veste la maglia numero 1 per i texani. Un pretesto sostanzialmente per criticare la scelta del draft dei comunque sorprendenti in questa via di stagione New York Knicks, rei, secondo James, di essersi lasciati sfuggire questo talento cristallino scegliendo con la numero 8 il franco-belga Frank Ntilikina, che si sta mantenendo in media attorno ai 4.4 punti e i 5 assist per gara. Veramente molto poco se paragonate ai numeri di Dennis Smith Jr., che viaggia intorno ai 15 punti per allacciata di scarpe, accompagnati con quasi 5 assist e circa 4 rimbalzi. In una franchigia che naviga nel fondaccio della Lega, dove le chiavi della squadra sono definitivamente passate da un Dirk Nowitzki che si mantiene a fatica attorno ai 10 punti per gara ad un Harrison Barnes che ne mette quasi 20, il giovane rookie è sicuramente in pole position meritata per essere additato come grande speranza di domani, in una classe di matricole che, ci tengo a ricordarlo, era da molto tempo che non appariva tanto piena di talento, quanto variegata ed interessante anche per l'impatto che in prospettiva può avere sulla Lega. Tra l'altro, a proposito di LeBron James e del giovane rookie dei Knicks, qualche ora dopo le dichiarazioni di LeBron i due giocatori si sono incontrati e scontrati sul parquet del Madison Square Garden, con il piccoletto che ha dimostrato di non temere troppo di dare un paio di spintoni gratuiti al fenomeno dei Cavaliers, in seguito alla discesa di questo da una bimane su alley-oop lanciata dall'amico di sempre Dwayne Wade. Ne è nato un siparietto all'inizio curioso, con un LeBron immobile che guardava basito il piccolo esordiente newyorkese, a protezione del quale ha corso un Enes Kanter che non ha voluto lasciarsi mancare l'occasione di offendere un po' il miglior giocatore della Lega. Mai stuzzicare però l'ira dei campioni, a maggior ragione quando giocano nell'arena più famosa del mondo. New York toccherà in quella partita vette di vantaggio apparentemente irraggiungibili fino all'inizio del quarto periodo, quando Cleveland, ispirata anche dal proprio numero 23, avvia una rimonta pazzesca, che si conclude praticamente proprio con la tripla del sorpasso di un LeBron che sfida al tiro la stella avversaria, il lettone Kristaps Porzingis. Come potete immaginarvi, se non avete ovviamente visto la partita, il risultato di questo tiro è stato solo rete, tanto da fare eccitare una Isaiah Thomas in borghese che saltava come un grillo a bordo campo, quasi incredulo per la rimonta pazzesca della sua nuova squadra. Tra l'altro, piccolissimo record proprio per lui, ancora lontano dall'esordio stagionale in maglia Cleveland, il suo nome è comunque già finito a referto proprio in occasione di questa partita, grazie ad un fallo tecnico ricevuto per proteste dalla panchina. Evidentemente la voglia di tornare per l'ex playmaker di Boston è tanta, quasi quanto quella di Cleveland Cavaliers di vederlo in campo. Ma brevemente, torniamo per un attimo indietro e ritorniamo a parlare di rookies. Se volessi azzardare una sorta di power ranking personale a livello di prime impressioni proprio di questa classe di rookies, sarebbe inevitabile posizionare Ben Simmons dei 76ers al numero 1, seguito dal concretissimo Jayson Tatum di Boston, che sta dimostrando maturità e concretezza in quella che appare, in questo momento, la miglior squadra della Lega. Al terzo posto, meritatamente sul podio, il già detto Dennis Smith Jr., mentre al momento una spanna sotto lo stesso, per ciò di cui abbiamo parlato poc'anzi principalmente, il futuribile Lonzo Ball, più per il suo potenziale di all-around che per la continuità dimostrata fino ad oggi. All'ultimo posto della mia personalissima top 5 inserisco un altro Laker, Kyle Kuzma, autentica sorpresa di questo draft che accanto proprio al talento tanto chiacchierato di Lonzo si attesta attorno ai 15 punti e quasi 7 rimbalzi di media. Una spanna sopra, seppur di poco, a mio avviso, rispetto a Donovan Mitchell, che oltre a flirtare con i 15 punti di media, pur lui sta dimostrando grandi doti atletiche e tecniche in quel di Utah. Al settimo posto è inevitabile inserire la power forward finlandese di Chicago, Lauri Markkanen, una delle poche note positive per la franchigia dell'Illinois, che si sta attestando attorno ai 15 punti di media con ottime percentuali al tiro, mentre rivedibili ma indubbiamente interessanti i due che inserisco più o meno a pari merito nelle posizioni 8 e 9. Si tratta di De'Aaron Fox di Sacramento e Josh Jackson di Phoenix, inevitabilmente in questo ordine. Chiudo inserendo al numero 10 Markelli Fultz di Philadelphia, oggetto misterioso se ce n'è uno, inevitabilmente penalizzato da un infortunio alla spalla di oscura risoluzione. L'augurio è comunque quello di poterlo vedere a fianco di Embiid e Simmons il prima possibile a dimostrare il valore per il quale è stato scelto con la numero 1 dello scorso draft. Andiamo adesso a dare un'occhiata alle classifiche della Lega, partendo da Ovest. Considerate che stiamo registrando ed è mercoledì pomeriggio. Finiscono nei bassi fondi della conference quei Los Angeles Clippers che erano partiti clamorosamente bene guidati da Blake Griffin. Dopo 4 vittorie nelle prime 4 partite sono arrivate la bellezza di 6 sconfitte consecutive, 8 nelle ultime 9 partite in seguito a questo avvio stellare, e l'unica vittoria nell'inframezzo è stata contro i derelitti Dallas Mavericks. Qualcosa si è evidentemente rotto in quella che da tempo era la prima squadra Los Angelina per risultati, clamorosamente dietro proprio ai dirimpettai Lakers che al momento in cui stiamo registrando hanno una vittoria in più. Statisticamente delude non poco l'apporto di un Danilo Gallinari relegato al ruolo quasi di specialista, quando potenzialmente potrebbe meritarsi le responsabilità di una seconda opzione offensiva di squadra. Ci sono 12 punti per gara per lui, con un pessimo 35% dal campo in questo avvio di stagione. Scelta infelice, a mio avviso, quella di accasarsi ai Clippers, laddove il leader conclamato non ha mai avuto la stoffa per esserlo. E mi riferisco a quel Blake Griffin che comunque viaggia a medie stagionali lusinghiere vicino ai 24 punti agli 8 rimbalzi di media. Continua a restare fuori Milos Teodosic, che difficilmente potrebbe essere causa di un vertiginoso ed immediato cambio di rotta, ma sicuramente contribuirebbe a far aumentare l'interesse nel visionare le attuali prestazioni dei Clips. Clippers, che hanno contribuito ad una parziale risurrezione di un'altra squadra che in linea di massima continua a deludere, quelli Oklahoma City Thunders, che hanno al momento una scia aperta di 2 vittorie consecutive, conseguente a 4 sconfitte di fila precedenti. Sembra essersi svegliato Paul George, che ha messo insieme 2 prestazioni offensive spaziali, proprio contro i Clippers con 42 punti e 4 triple, e contro Dallas, 37 punti e 7 triple per lui. Si dice che dopo la 4ª sconfitta consecutiva la squadra abbia provato a prendere la situazione in mano attraverso una lunga riunione di chiarimento. Vediamo se Westbrook e compagni continueranno a far quadrare le cose nelle partite seguenti. Al vertice della conference appaiate Golden State e Houston, in pieno controllo della situazione e delle partite giocate. Se i Rockets appaiono una macchina distruttiva unica, seppur ancora senza Chris Paul, tanto da mangiarsi le partite fin dai primi minuti, i Warriors continuano a manifestare onnipotenza creando parziali decisive ed apparentemente silenziosi quando più gli aggrada. Contro una Philadelphia che è scesa in campo quadratissima allora con la rina e senza timori referenziali, i Warriors hanno scavato il parziale decisivo nel terzo quarto e l'hanno fatto in un amen e in modo quasi silenzioso. Sembrano davvero di un altro pianeta, anche se l'alieno con il barbone più lungo dell'otto, quel James Harden che con la sua Houston li accompagna al vertice della conference, sembra essere di altro parere a livello di previsioni finali personali. Al momento si attesta sui 30 punti e di 10 assist per allacciata di scarpe, ed attenzione perché nelle prossime ore, probabilmente sarà già accaduto dal momento in cui state ascoltando questa registrazione, Chris Paul dovrebbe tornare in campo per Houston e sarà interessantissimo vedere come si inserirà in una squadra che sta andando molto molto bene a livello di equilibri. Guardando invece ad est, continua il dominio di Boston, anche scendendo in campo senza Kyrie Irving. Al momento che stiamo registrando sono 13 le vittorie consecutive dei Celtics, tra queste una contro Toronto proprio senza l'ex Cleveland, che si è infortunato al volto ma è comunque rientrato in campo con l'ausilio della maschera in occasione appunto della 13ª vittoria consecutiva. Contro i Raptors la vittoria è arrivata negli ultimi minuti grazie comunque ad una prova corale di alto livello, all'interno della quale si è distinto un granitico Al Horford. Il calendario metterà di fronte Boston proprio ai Golden State Warriors nei prossimi giorni, una gara di sicuro interesse della quale conoscerete già vita, morte e miracoli al momento in cui starete ascoltando questa registrazione. Augurandosi di vedere una grandissima partita con il rientro, la seconda gara probabilmente in campo, del numero 11 maglia verde, la domanda che sorge spontanea è relativa all'assenza già ampiamente conosciuta di Gordon Hayward. Chissà se i giocatori come Jaylen Brown oppure il rookie Jason Tatum ed altri apparenti comprimari che hanno visto aumentare il loro livello di responsabilità avrebbero avuto un livello di crescita tale come quello che appare adesso senza il dichiarato infortunio del secondo violino di squadra. Sicuramente nella sventura dell'avvio Boston sta dimostrando di essere stata in grado di correggere in corsa ogni tipo di problema, coprendo nuovi eroi all'interno del roster tutte le notti. Di fatto in questo momento la principale contender ad est sono loro, anche perché Cleveland ancora sonnecchia seppur appaia in lenta operazione di quadratura. C'è tanta voglia, come già detto rispetto ai Cavaliers, di vedere esordire in campo il piccolo Isaiah Thomas, apparso grintosissimo e coinvolto al seguito della squadra. Continuando la nostra disamina della corsa d'est, impossibile non sottolineare il capolavoro momentaneo dei Detroit Pistons, seconda squadra in classifica con il 76% di vittorie. Clamoroso apporto statistico sotto canestro di un Andre Drummond, che oltre a garantire 15 rimbalzi e più di una stoppata per gara, primeggia tra le statistiche di squadra anche nei recuperi. Avvio da All-Star per Tobias Harris, che si attesta attorno ai 20 punti per gara, laddove la chiave assoluta del salto di qualità appare quell'Avery Bradley che lo scorso anno giocava proprio con Isaiah Thomas ai Boston Celtics. 17 suoi punti di media, una statistica non da poco per un giocatore da sempre riconosciuto come fondamentale soprattutto nella metà campo difensiva. Nella serie di 5 vittorie consecutive attiva al momento che stiamo registrando, Bradley si è comunque stanziato sui 21 punti di media, dimostrandosi ancora una volta giocatore prezioso stavolta in entrambi i lati del campo. Una realtà interessante quella della Motor City, che sembra resistere laddove appaiono un po' in frenata altre squadre sorpresa come Orlando, che si mantiene comunque attorno al 55% di vittorie, e New York, che in questo momento ha, seppur di poco, una vittoria in più rispetto alle sconfitte. In risalita a Philadelphia, dopo una vittoria splendida in trasferta ad ovest in casa dei Clippers, con uno strepitoso Joel Embiid da 16 rimbalzi e 32 punti in 36 minuti di impiego, e Robert Covington stellare e decisivo con 31 punti, 5 su 8 da 3 e di canestri decisivi nel finale. Non dimentichiamoci un già citato Ben Simmons, che al momento flirta seriamente con la tripla doppia di media, attestandosi sui 17 punti, 7,5 rimbalzi e 9 assist per partita. Occhio, si tratta ovviamente della sua prima stagione, non può apparire altro, però che la stella più brillante nel firmamento di un futuro prossimo potrebbe essere proprio lui. C'è po' da fare, è nettamente in pole position. Benissimo, anche questa puntata di NBA Week giunge al termine. Vi rinnovo tutti gli appuntamenti consueti per ascoltarci in streaming su Radio Big World tutti i venerdì sera alle 21.30. Il giorno seguente, alla mattina, ci trovate nel canale YouTube di Belli 13, la domenica pomeriggio su Radio Valdarno. Per ogni aggiornamento dell'ultimo minuto vi consiglio di visitare e mettere un like alla nostra pagina Facebook NBA Week. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima.